Terzo Anello ad alta voce, in collaborazione con l'Istituto Centrale per i Beni Sonori ed Audiovisivi. Alba Rohrwacher legge Il Mago di Oz di Frank Baum. Traduzione di Sara Sollors. Il soldato dai baffi verdi li guidò per le strade della città smeralda finché non raggiunsero la stanza dove abitava il guardiano dei cancelli. Quest'ufficiale gli slacciò gli occhiali per riporli nel suo scatolone e cortesemente aprì il cancello per i nostri amici. «Quale strada porta alla perfida strega dell'Ovest?» domandò Dorothy. «Non c'è strada», rispose il guardiano dei cancelli. «Nessuno vuole mai andare da quella parte». «E come faremo allora a trovarla?» chiese la ragazzina. «Sarà facile», rispose l'uomo. «Una volta saputo che siete nella terra dei Lessocchi, vi troverà lei e vi farà diventare suoi schiavi». «Magari no», rispose lo spaventapasseri, «perché noi intendiamo distruggerla». «Oh, allora è differente», disse il guardiano dei cancelli. «Nessuno l'ha mai distrutta prima d'ora, così ovviamente ho pensato che vi avrebbe fatto suoi schiavi, come ha fatto con gli altri. Ma fate attenzione, perché è perfida e feroce e potrebbe non permettervi di distruggerla. Restate verso ovest, dove tramonta il sole, e non potrete fare a meno di trovarla». Lo ringraziarono e lo salutarono, e si diressero verso ovest, attraversando prati punteggiati di ranuncoli e margheritine. Dorothy indossava ancora il bel vestito di seta che aveva messo a palazzo, ma adesso si accorse, sorpresa, che non era più verde, ma bianco candido. Il nastro attorno al collo di Toto aveva anch'esso perso il verde ed era bianco quanto l'abito di Dorothy. Presto si lasciarono alle spalle la città smeralda. Man mano che avanzavano, il terreno diventava sempre più accidentato e bitorzoluto, perché non veniva mai arato, visto che non c'erano né fattorie né case in questo paese dell'Ovest. Per tutto il pomeriggio il sole gli picchiò in testa, perché non c'erano alberi a offrire riparo. Di modo che prima di sera Dorothy e Toto e il leone erano così stanchi che si sdraiarono sull'erba e subito si addormentarono sotto l'occhio vigile dell'uomo di latta e dello spaventapasseri. La perfida strega dell'Ovest aveva un occhio solo, ma era potente come un telescopio e vedeva ovunque. Quindi, mentre stava seduta sulla porta del suo castello, le capitò di guardarsi intorno e vide Dorothy addormentata, circondata dai suoi amici. Erano molto lontani, ma la perfida strega si arrabbiò vedendoli nel suo regno. Quindi fece un fischio con un fischietto d'argento che aveva attorno al collo. corse immediatamente verso di lei da ogni direzione un branco di lupi giganteschi. Avevano delle zampe lunghe e occhi feroci e denti aguzzi. «Andate da quella gente», disse la strega, «e fateli a pezzi». «Non li vuoi fare schiavi?» domandò il capo dei lupi. «No», rispose. «Uno è di latta e uno è di paglia. Una è una ragazzina e un'altra è un leone. Non sono buoni a nulla, quindi tanto vale che li facciate a pezzettini». «Va bene», disse il lupo, e corse via il più veloce possibile seguito dagli altri. Fortunatamente lo spaventapasseri e l'uomo di latta erano svegli e sentirono i lupi arrivare. «Questa è la mia battaglia», disse l'uomo di latta. «Mettiti dietro di me e li affronterò man mano che arrivano». Prese l'ascia, che aveva affilato ben bene, e quando il capo dei lupi si avvicinò, l'uomo di latta alzò il braccio e gli separò la testa dal corpo, cosicché morì subito. Ebbe appena il tempo di alzare l'ascia di nuovo che arrivò un altro lupo e cadde anch'esso sotto la lama aguzza dell'arma dell'uomo di latta. C'erano 40 lupi e 40 volte fu ucciso un lupo, di modo che alla fine ci fu un mucchio di lupi morti davanti all'uomo di latta. Quindi mise giù l'ascia e si sedette accanto allo spaventapasseri e disse: «È stata una buona battaglia, amico». Aspettarono che si svegliasse Dorothy al mattino. La ragazzina si spaventò molto vedendo il mucchio di lupi irsuti, ma l'uomo di latta le spiegò tutto. Lo ringraziò per averli salvati, fece colazione, dopodiché si rimisero in cammino. Hendersons will all be there, later Pablo Frank is there, what a scene. Over men and horses, hoops and garters, lastly through a hogshead of real fire. In this way, Mr. K will challenge the world. La medesima mattina la perfida strega si mise sulla porta del castello e guardò fuori con il suo unico occhio che vedeva molto lontano. Vide tutti i suoi lupi morti e gli stranieri che continuavano ad attraversare il suo regno. Si arrabbiò più di prima e fece due fischi con il fischietto d'argento che aveva attorno al collo. Arrivò subito uno stormo di corvi selvatici, tanti da oscurare il cielo, e la perfida strega disse al re corvo: «Volate subito da questi stranieri, strappategli gli occhi e fateli a pezzi!» I corvi selvatici volarono in un unico stormo verso Dorothy e i suoi compagni. Quando la ragazzina li vide avvicinarsi si spaventò, ma lo spaventapasseri disse: «Questa è la mia battaglia, sdraiatevi accanto a me e non vi verrà fatto del male». Così si misero tutti a terra, tranne lo spaventapasseri, che rimase in piedi e spalancò le braccia. E quando i corvi lo videro, si spaventarono, come gli capita quando vedono uno spaventapasseri, e non osarono avvicinarsi. Ma il re corvo disse: «È solo un uomo impagliato, gli strapperò gli occhi». Il re corvo volò verso lo spaventapasseri, che lo prese per la testa e gli tirò il collo. E poi volò verso di lui un altro corvo, e lo spaventapasseri tirò il collo anche a lui. C'erano 40 corvi, e 40 volte lo spaventapasseri tirò loro il collo, finché non furono tutti morti ai suoi piedi. Poi disse ai suoi compagni di alzarsi, e ripresero ancora una volta il cammino. Quando la perfida strega guardò di nuovo fuori e vide tutti i suoi corvi in un mucchio, divenne oltremodo furiosa e fece tre fischi con il fischietto d'argento. Immediatamente si sentì un brusio e arrivò uno sciame di api nere. «Andate dagli stranieri e pungeteli fino a farli morire!» comandò la strega. E le api si alzarono in volo giungendo rapidamente dove Dorothy e i suoi amici stavano camminando. ma l'uomo di latta le vide avvicinarsi e lo spaventapasseri decise il da farsi. «Tira fuori la mia paglia e spargila sopra la ragazzina, il cane e il leone», disse all'uomo di latta, «così le api non potranno pungerli». L'uomo di latta eseguì e Dorothy si rannicchiò con il leone e Toto sotto un mucchio di paglia che li copriva interamente. Le api arrivarono e non trovarono nessuno da pungere a parte l'uomo di latta e ruppero quindi tutti i loro pungiglioni nell'impatto senza fargli alcun male. E dato che le api non possono vivere senza il loro pungiglione, questa fu la loro fine e i loro corpi s'ammucchiarono a terra attorno all'uomo di latta come mucchietti di carbone fino. Quindi Dorothy e il leone si alzarono e la ragazzina aiutò l'uomo di latta a rimettere la paglia nello spaventapasseri finché non tornò come nuovo. Così, ancora una volta, ripresero il cammino. La perfida strega si arrabbiò tantissimo quando vide le sue api nere in mucchietti come di carbone fino e così batté i piedi per terra e digrignò i denti. Chiamò a sé una dozzina di schiavi, che erano i lessocchi, e diede loro delle lance aguzze, dicendogli di andare dagli stranieri e di distruggerli. I lessocchi non sono un popolo coraggioso, ma dovevano fare ciò che gli era stato ordinato. E così marciarono finché non arrivarono vicino a dove si trovava Dorothy. Il leone ruggì e balzò davanti a loro. E i poveri lessocchi presero una tale paura che tornarono indietro correndo il più veloce possibile. Quando tornarono al castello, la perfida strega li fustigò ben bene con la cinghia e li rimandò al lavoro, dopodiché si sedette a pensare sul da farsi. Non riusciva a capire perché tutti i suoi piani per distruggere gli stranieri fossero falliti. Ma era una strega potente, oltre che perfida, e decise rapidamente come procedere. C'era, nella sua credenza, un cappello dorato con tutti intorno giri di diamanti e rubini. Questo cappello dorato era magico. Chiunque lo possedesse poteva per 3 volte chiamare le scimmie alate, che avrebbero obbedito a qualsiasi ordine. Ma queste strane creature si potevano chiamare solo per 3 volte. La perfida strega aveva già usato la magia del cappello 2 volte. Una quando aveva reso schiavi le socchi e si era messa a capo del regno. Le scimmie alate l'avevano senz'altro aiutata. La seconda volta, quando aveva combattuto contro il grande Oz in persona e lo aveva buttato fuori dalla terra dell'Ovest. Le scimmie alate l'avevano aiutata anche in questa impresa. Poteva usare solo un'altra volta il cappello dorato e la teneva in serbo per quando avesse esaurito gli altri suoi poteri. Ma adesso che non c'erano più i lupi feroci e i corvi selvatici e le api nere e i suoi schiavi erano stati spaventati dal leone Fifone, capì che non le rimaneva altro modo per distruggere Dorothy e i suoi amici. Così la perfida strega prese il cappello dorato dalla credenza e se lo mise in testa. Poi si mise in equilibrio su un piede solo e disse lentamente: «Eppe, peppe, cacche». Poi cambiò piede e disse: «Cio, cieo, ciao». Quindi appoggiò a terra entrambi i piedi e gridò forte: «Zi-zi, zu-zi-zi, zic!». Ora la magia iniziò a funzionare. Il cielo divenne più scuro e si udì un suono sordo e borbottante. Si sentì il fruscio di molte ali, chiacchiericci e schiamazzi, e il sole emerse dal cielo oscurato, mostrando la perfida strega circondata da una folla di scimmie, dalle spalle di ognuna delle quali spuntavano ali immense e potenti. una, molto più grande delle altre, sembrava esserne il capo. Volò accanto alla strega e disse: «Ci hai chiamato per la terza e ultima volta. Cosa ci comandi?» «Andate dagli stranieri che si trovano nel mio regno e distruggeteli tutti, tranne il leone», disse la perfida strega. «Portatemi quella bestia, perché penso di mettergli le briglie come un cavallo e di costringerlo a lavorare». «I tuoi ordini verranno eseguiti», disse il capo. E poi, dopo nuovi chiacchiericci e schiamazzi, le scimmie alate volarono verso il posto dove Dorothy e i suoi amici stavano camminando. Alcune scimmie sollevarono l'uomo di latta e lo portarono sospeso in aria fino ad una parte del regno quasi completamente ricoperta di sassi appuntiti. Qui lasciarono cadere il povero uomo di latta da molto in alto sulle rocce, dove giacque così rottamato e graffiato che non poteva più spostarsi e nemmeno gemere. Altre scimmie presero lo spaventapasseri e con le loro lunghe dita gli tirarono fuori tutta la paglia dalla testa e dai vestiti. Fecero un fagottino del suo cappello, dei suoi stivali e dei suoi vestiti e lo buttarono in cima ai rami di un alto albero. Il resto delle scimmie lanciò pezzi di grossa corda addosso al leone e gliela avvolsero intorno al corpo, alla testa e alle zampe, finché non fu più in grado né di mordere, né di graffiare, né di opporre qualsiasi resistenza. Poi lo alzarono da terra e volarono con lui al castello della strega, dove lo misero in un cortiletto delimitato da un'alta rete metallica per evitare che fuggisse. Ma Dorothy non fecero assolutamente nulla. Stava lì, con Toto in braccio, guardando ciò che accadeva ai suoi compagni, aspettando il suo turno. Il capo delle scimmie alate volò verso di lei, con le lunghe braccia pelose tese e con un ghigno terribile sulla brutta faccia. Ma, veduto il segno lasciato dal bacio della strega buona sulla fronte di Dorothy, si fermò bruscamente, facendo segno agli altri di non toccarla. «Non osiamo fare del male a questa ragazzina», disse, «perché è protetta dal potere del bene, che è più forte del potere del male. Possiamo soltanto portarla al castello della perfida strega e lasciarla lì». E così, con gentile cura, presero in braccio Dorothy e la portarono rapidamente attraverso l'aria, finché non giunsero al castello, dove la lasciarono sulla soglia. Poi il capo disse alla strega: «Ti abbiamo obbedito nei limiti del possibile. L'uomo di latta e lo spaventapasseri sono stati distrutti e il leone è nel tuo cortile, legato. Ma non osiamo fare del male né alla ragazzina né al cane che porta tra le braccia. Il tuo potere su di noi è finito ora e non ci rivedrai mai più». Poi tutte le scimmie volanti, tra molte risate e chiacchiericci e schiamazzi, volarono via e scomparvero dalla vista. La perfida strega fu sorpresa e si preoccupò quando vide il marchio sulla fronte di Dorothy, perché sapeva bene che né le scimmie alate né lei medesima avrebbero mai osato fare del male alla ragazzina. Guardando i piedi di Dorothy, vide le scarpe d'argento e iniziò a tremare di paura, perché sapeva quale potente magia contenevano. Inizialmente la strega pensò di scappar via da Dorothy, ma poi, incrociando il suo sguardo per caso, vide che anima onesta c'era dietro e che la ragazzina non sapeva dei meravigliosi poteri che le scarpe d'argento le davano. La perfida strega rise tra sé e sé e pensò: «Posso comunque fare di lei una schiava, perché non sa usare i suoi poteri». Quindi disse a Dorothy, con brusca severità: «Vieni con me, e vedi di fare attenzione a tutto ciò che dico, perché se no finirai come l'uomo di latta e lo spaventapasseri». Dorothy la seguì attraverso molte belle stanze, finché non arrivarono in cucina, dove la strega le ordinò di pulire le pentole, le padelle, scopare il pavimento e mettere la legna sul fuoco. Docilmente Dorothy si mise al lavoro, decisa a farlo il meglio che poteva, perché era felice che la perfida strega avesse deciso di non ucciderla. Con Dorothy che lavorava sodo, la strega pensò di andare in cortile e imbrigliare il leone come fosse un cavallo. Sarebbe stato uno spasso, ne era sicura, fargli trainare la carrozza tutte le volte che lo voleva. Ma quando aprì il cancello, il leone ruggì minacciosamente e si slanciò verso di lei con una tale ferocia da spaventarla, e così la strega corse fuori e si richiuse il cancello alle spalle. «Se non posso metterti le redini», disse la strega al leone attraverso il cancello, «ti farò morire di fame. Non avrai più da mangiare finché non farai come desidero». D'allora in poi non portò più cibo al leone imprigionato. Mandava tutti i giorni al cancello a mezzogiorno e domandava: «Sei pronto a metterti le briglie come fossi un cavallo?» E il leone rispondeva: «No. Se entri in questo cortile ti morderò». Il leone poteva permettersi di non fare come voleva la strega, perché tutte le notti, mentre la donna dormiva, Dorothy gli portava del cibo dalla credenza. Dopo aver mangiato si sdraiava sul letto di paglia e Dorothy si sdraiava accanto a lui e appoggiava la testa sulla sua criniera soffice e arruffata, mentre parlavano dei loro problemi e tentavano di pianificare la fuga. Ma non riuscivano a pensare a un modo di uscire dal castello, perché era sempre sorvegliato dai gialli lessocchi, che erano schiavi della perfida strega e la temevano troppo per disobbedirle. La ragazzina doveva lavorare sodo durante il giorno, e spesso la strega minacciava di picchiarla con il vecchio ombrello che aveva sempre in mano. Ma, in verità, non osava colpire Dorothy a causa del marchio sulla sua fronte. La ragazzina questo non lo sapeva, e temeva per se stessa e per Toto. Una volta la strega aveva colpito Toto con l'ombrello e il cagnolino coraggioso si era lanciato su di lei e l'aveva morsa per ricambiare. La strega non perse sangue là dove era stata morsa, perché era così perfida che il suo sangue si era asciugato molti anni prima. La vita di Dorothy divenne molto triste quando capì che era più difficile che mai tornare in Kansas e dalla zia Em. A volte piangeva amaramente per ore, con Toto ai suoi piedi che la guardava in faccia e guaiva sconsolato per dimostrare quanto fosse dispiaciuto per la sua padroncina. A Toto non faceva alcuna differenza trovarsi in Kansas o nella terra di Oz, purché stesse vicino a Dorothy. Ma sapeva che la ragazzina era infelice, e questo rendeva infelice anche lui. La perfida strega desiderava ardentemente avere per sé le scarpe d'argento che la ragazzina indossava sempre. Le sue api e corvi e lupi erano sparsi in mucchietti a rinsecchirsi, e aveva esaurito il potere del cappello dorato. Ma se avesse potuto prendere le scarpe d'argento, le avrebbero dato più potere di tutte le altre cose che aveva perso. Seguiva Dorothy con attenzione, per vedere se se le toglieva, pensando di rubargliele. Ma la ragazzina andava così fiera delle sue belle scarpe che non se le toglieva mai, tranne di notte e quando si lavava. La strega aveva troppa paura del buio per tentare di andare a prendere le scarpe di notte nella camera di Dorothy, e aveva ancora più paura dell'acqua che del buio, quindi non si avvicinava mai a Dorothy mentre si faceva il bagno. Oggettivamente, la vecchia strega non toccava mai acqua, né mai permetteva che l'acqua la toccasse. Ma la perfida creatura era molto astuta, e a forza di pensarci ideò un piano per ottenere ciò che voleva. Mise una sbarra di ferro nel mezzo del pavimento della cucina e poi, con le sue arti magiche, la rese invisibile ad occhi umani. Quando Dorothy, non vedendola, inciampò sulla sbarra, cadde lunga distesa. Non si fece tanto male, ma nella caduta perse una delle scarpe d'argento, e prima che riuscisse a riprendersela, la strega l'aveva afferrata con destrezza e se l'era messa sul suo piede magrolino. La perfida donna era al colmo della gioia per la riuscita del suo piano, visto che possedendo una delle scarpe aveva la metà della loro magia e Dorothy non poteva usarla contro di lei, neanche se avesse saputo come fare. La ragazzina, accorgendosi di aver perso una delle sue belle scarpe, si adirò e disse alla strega: «Ridammi la mia scarpa!» «No», ribatté la strega, «perché adesso è mia la scarpa, non tua!» «Sei una creatura perfida!» le urlò Dorothy. «Non hai il diritto di portarmi via la scarpa!» «La terrò lo stesso!» disse la strega ridendo, «e un giorno ti porterò via anche l'altra!» A questo punto Dorothy si arrabbiò anche di più e prese il secchio d'acqua che era lì vicino e lo rovesciò sulla strega, bagnandola dalla testa ai piedi. La perfida donna urlò dal terrore, poi, mentre Dorothy la guardava perplessa, iniziò a rimpicciolirsi e a svanire. «Guarda che cosa hai fatto!» urlò. «Tra un minuto mi sarò sciolta!» «Mi dispiace molto, davvero!» disse Dorothy, sinceramente impaurita nel vedere la strega sciogliersi davanti ai suoi occhi come neve al sole. «Non sapevi che l'acqua mi avrebbe uccisa?» domandò la strega con voce lagnosa e disperata. «Certo che no!» rispose Dorothy. «Come avrei potuto?» «Beh, tra un paio di minuti sarò sciolta tutta! E avrai il castello tutto per te. Sono stata perfida in vita, ma non ho mai pensato che una ragazzina come te sarebbe stata in grado di sciogliermi e mettere fine alla mia cattiveria. Ecco, addio!» Pronunciando queste parole, la strega si liquefece in una massa marrone, acquosa e senza forma, che iniziò a spandersi su tutto il pavimento pulito della cucina. Visto che la strega si era liquefatta, Dorothy riempì il secchio d'acqua e lo svuotò sopra quel liquame. Poi spazzò tutto fuori dalla porta. Dopo aver preso la scarpa d'argento, l'unica cosa rimasta della vecchia, la ripulì e l'asciugò con uno straccio e se la rimise al piede. Poi, finalmente libera di fare ciò che voleva, corse in cortile per raccontare al leone che la perfida strega dell'Ovest era morta e che non erano più prigionieri di quello strano paese. Alvar Horvacher ha letto Il mago di Oz di Frank Baum. Realizzazione tecnica di Lorenzo Greco, a cura di Fabiana Carobolante e Anna Antonelli con Lorenzo Pavolini. Il terzo anello @rai.it. L'elenco dei brani musicali si trova alla pagina di Ad Alta Voce nel sito radio3.rai.it. Per scaricare questo programma, radio3pod.rai.it.